Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, è inutile girarci attorno. Il tema oggi è quello che sta capitando sulle borse europee. Dico europee perché, premetto che mal comune mezzo gaudio non si può dire, perché è vero che Milano sta perdendo tanto, siamo a meno 4,90%, adesso continua il peggioramento all'indice, è sceso a 16.400 punti, ma è anche vero che Francoforte perde il 3,5%, che è tantissimo anche per Francoforte, come lo perde Parigi. L'America perde il Dow Jones il 2,20%, Londra perde il 2,56%, e da questo punto di vista l'unico stabile oggi è il rapporto euro-dollaro a 1,11. Che cosa è successo? Beh, di nuovo sono sotto pressione tutti i titoli bancari a livello europeo. Faccio notare che è vero che da noi l'indice dei titoli bancari ha perso da inizio anno il 33% del valore, adesso vi do anche la cifra definitiva, il 34%, che è tantissimo, vuol dire che ha ridotto di un terzo il valore di borsa dei titoli bancari italiani, mediamente. Venivano da rialzi nel 2015, ma non basta questo ragionamento. Però oggi molto male va, da un lato Deutsche Bank è arrivata a perdere il 7%, da inizio anno il calo del 36%, e sono schizzati i famosi credit default swaps, i CDS, che spesso abbiamo definito, per farci capire da tutti, come i premi che si pagano all'assicurazione in base al tuo rischio. La misura, più sei rischioso, più sale il premio che paghi l'assicurazione. Ecco, guardateli in questo modo, sono saliti da 90 punti a 200 punti. Quindi viene percepito un rischio pesante su Deutsche Bank. L'altro colosso tedesco, Commerzbank, ha perso quasi l'8% e da inizio anno ha perso il 30%. Lo dico, ripeto, non per dire tanto così fanno tutte le banche e fanno anche le nostre, perché c'è una debolezza ulteriore, e oggi Milano comunque perde un punto e mezzo più del resto, 1,3 più delle altre borse. Però per inquadrare il tema occorre ricordare che il 30% di calo è un calo generalizzato a tutti gli altri titoli bancari europei. Dicevo, Commerzbank ha fatto meno 30% da inizio anno, Credit Suisse il 33% in meno, Royal Bank of Scotland meno 22%, il Banco Spagnolo Santander a meno 21%, BNP Paribas meno 24%. Ora è chiaro che poi le nostre hanno perso di più in alcuni casi. Qualcuno mi sta chiedendo, ma come mai c'è questo accanimento sulle poste? Guardi che non c'è un accanimento sulle poste. Adesso leggerò l'andamento di borsa, e tu viene giù tutto, come si dice in gergo. Allora, al di là di Saipem che fa meno 24, la Popolare Emilia Romagna meno 11, Monte dei Paschi meno 11,30, Banco Popolare meno 10,70, Fiat Chrysler meno 10,13, un Popolare di Milano meno 9,90, UbiBanca meno 9,60, Exor, la controllante del gruppo Fiat, meno 9,30, Mediobanca meno 8,80, come Anima Holding e le Poste Italiane, e anche Azimut e Mediaset perdono sempre l'8,80%, Mediolanum perde l'8,20%, Iux Net-a-Porter cala dell'8%, Buzzi Unicem del 7% come Atlantia, il 6%, il 6,5% lo perde Telecom Italia ed ST Microelectronics. È un lunedì nero, nerissimo, anche perché arriva dopo cali continui da inizio anno nelle borse e nei titoli bancari in primo luogo, come ricordavo. Quindi non è un lunedì nero di correzioni, come dicono quelli che hanno studiato, cioè in cui vai a vendere perché i titoli sono alti, i titoli sono a livello basso. E Unicredit perde il 5,80, 3 euro per azione, Unipolsai il 5,56, mi fermo con chi perde più del 5%, dicevo Unipolsai il 5,50, CNH il 5,5% come Prismian, Finmeccanica il 5% come A2A e Intesa San Paolo. Ma per dire, anche Unipol perde 4,90, Campari 4,80, Ferrari 4,60, Ferragamo il 4,5, Eni il 3,70. L'unico titolo positivo è Italcementi più 0,10%. Mi scrive un ascoltatore, dice sta arrivando la tempesta perfetta. Petrolio in caduta libera, spread in aumento, governi, diciamo, non all'altezza, uso un'altra espressione, crescita modestissima, deflazione, questione greca, allargamento della forbice tra ricchi e poveri, ISIS, conflitti in varie zone del mondo, paesi periferici in recessione. Allora, come, parafrasando la battuta di Groucho Marx, e anch'io, io come conduttore non mi sento molto bene oggi, come si può capire dalla voce. È chiaro che al di là del petrolio in caduta libera, devo dire che oggi a $30 al barile si è fermato, a noi sembra che si sia fermato a quel livello, che è un livello basso. Non so se vi sia troppa carne al fuoco, ma sicuramente la cosa che, se vogliamo trovare una novità, una notizia in questi cali, è che confermano che c'è una sfiducia generalizzata sulle banche europee, che va a colpire anche e in particolare le banche italiane. Ma ripeto, attenzione ai due colossi, Commerzbank e Deutsche Bank, che oggi hanno avuto un ruolo importante in questi cali. L'altro ruolo importante, e ne parleremo, sia delle banche tedesche che della Grecia, perché oggi il listino di Atene ha toccato un minimo storico, nel senso che era 25 anni che non scendeva a 464 punti, è crollato di quasi l'8%, 7,87%, piogge di vendite anche lì sui titoli bancari. Alfa Bank, Banca del Pireo, Banca Nazionale di Grecia, Eurobank hanno avuto crolli tra il 20 e il 25%, mediamente i titoli bancari hanno fatto un meno 23,5%, per cui lo spread con il Bund tedesco si riporta verso quota 1000 punti, che è una cifra altissima. Noi sappiamo che sopra i 700 punti, diciamo, quando uno spread supera i 700 punti si dice che non è più ripagabile quel debito. E in tutto questo devo dire che l'unica notizia, a mio avviso non notizia, è il nostro spread, perché è vero che è salito a 130 punti, ma ricordiamoci che 130 punti sono ancora un livello più che accettabile nella differenza con quanto rende il Bund tedesco. Questo è il tema della puntata, e quindi da un lato borse, dall'altro banche tedesche e Grecia, con l'aggiunta di un approfondimento sull'ILVA, perché oggi è arrivata la prima manifestazione di interesse per la privatizzazione dell'ILVA da parte del gruppo Marcegaglia. Fonti interne all'azienda confermano che presenterà una manifestazione di interesse. Allora faremo il punto, anche perché la gara sarà una gara europea, per capire quello che chiede, si aspetta anche la Commissione europea. 349-238-6666 per i vostri sms per scrivere su WhatsApp. Mi dispiace la battuta, a me, io ricordo essere di Groucho Marx, ricordo benissimo che la citava anche Woody Allen, però adesso non vorrei fare la puntata su questo, se volete, ma probabilmente vedo che molti sostengono che la battuta di Woody Allen, andremo a verificare anche se la battuta sia di Woody Allen o di Groucho Marx, nel qual caso chiederò venia, mi sembra il problema minore che abbiamo in questa giornata. Notizie in breve. Tantissimi messaggi, quindi secondo lei non ci dobbiamo preoccupare se siamo il secondo peggior listino del mondo? No, non ho detto questo, ho detto che le vendite complessive sui titoli bancari si acuiscono sull'Italia, e ho dato la media del settore. Noi abbiamo una media del settore che è di quasi 10 punti più alta rispetto alle principali banche spagnole o francesi. Ho detto solo che non è un caso isolato dell'Italia, mediamente i cali delle banche europee vanno tra il 20 e il 30% da inizio anno. Allora andiamo avanti con il resto. Qualcuno mi chiede il rapporto di cambio a 1,1170, poco mosso da quel punto di vista. Sui titoli bancari in difficoltà in tutta Europa ne parleremo chiaramente, ma su questo, come presumibile, si concentrano i 100 secondi di Radio 24, solo 24 ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma del vice direttore Alberto Orioli. Il I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Sulle borse torna la paura dello spread e Atene diventa ancora una volta epicentro della speculazione, oltre che dell'azione di politica economica dell'Europa. La borsa greca è arrivata a perdere oltre il 10%, salvo poi chiudere a quota meno 7,6, creando un alone negativo per tutte le altre piazze europee, Milano compresa, che dopo un avvio in rimbalzo è scesa a meno 4%. Lo spread dell'Italia è tornato a superare quota 140, con un balzo di quasi il 20%, del tutto anomalo in quest'ultimo periodo. Ma cosa sta succedendo? La Grecia è in tumulto per l'impatto che sta avendo la riforma delle pensioni voluta dal governo Tsipras e dettata dalla cosiddetta Troica, BCE, Unione Europea e Fondo Monetario, che di fatto ha commissariato l'attuazione delle riforme in cambio del prestito di 86 miliardi. Il riassetto del welfare prevede la riduzione a 2.300 euro dell'ammontare mensile massimo dell'assegno pensionistico, prima era 2.700, e la pensione minima ottenuta con almeno 15 anni di contributi viene ridotta a 384 euro. In gioco ci sono 86 miliardi di piano di aiuti negoziato a luglio e la Troica ora minaccia di non erogare la prossima tranche, che è di 3 miliardi e mezzo e dovrebbe servire proprio a garantire il pagamento di stipendi e pensioni pubbliche. Da giorni gli agricoltori bloccano la ferrovia di Atene e molte strade strategiche, ma hanno annunciato manifestazioni anche i professionisti, i dipendenti pubblici e i camionisti. La Grecia, come l'Italia, è poi oggetto dell'ipotesi della cosiddetta mini Schengen, che escluderebbe i due paesi dalla libera circolazione delle persone e lascerebbe alla zona sud dell'Europa la gestione diretta e in solitario dell'ondata migratoria dei profughi siriani. Tsipras sta cercando di negoziare uno scambio tra questi due tavoli: più disponibilità della Grecia nell'allestire i campi profughi e nell'accogliere la prima ondata di migranti, in cambio di un abbattimento del debito. Una mossa audace su cui i mercati però non scommettono, anzi temono che la Grecia possa tornare quanto prima a intaccare la fiducia su tutta l'Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, ho difficoltà oggi a stare dietro a tutti i messaggi che arrivano su WhatsApp, li stiamo guardando e anche via SMS, chiaramente la preoccupazione la condividiamo, alcuni puntano l'indice, adesso vado per raggruppamenti, alcuni puntano l'indice sulla parte che riguarda la Germania, quindi i titoli tossici presenti nella pancia delle banche tedesche. Altri sulla Grecia, altri sulla nostra debolezza. Comunque, su questo è intervenuto anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che ha parlato anche di altri elementi, oggi ci mancherebbe. Lo ascolteremo quando avremo l'approfondimento sia su Grecia che su banche tedesche. Oggi Padoan ha anche aggiunto, parlando a un convegno alla Camera, che l'Europa è percepita come un problema per l'occupazione. Credo che ci sia, emerga in modo molto chiaro dagli interventi, che l'Europa ha forte bisogno di una forte strategia per la crescita. Una strategia europea che abbia una dimensione continentale, ma si articoli anche in dimensioni nazionali che siano tra loro coerenti. Perché ovviamente esiste una chiara divisione dei compiti fra politiche europee e politiche nazionali. Perché ci vuole una strategia di crescita? Perché innanzitutto il problema dell'occupazione o della mancata occupazione è ancora lungi dall'essere risolto. Questo è il vero tema. Questa è la ragione per la quale l'Europa oggi viene vista da molti come non una soluzione ma come un problema. Allora, il ministro dell'economia Padoan ha anche detto che il lavoro della Banca Centrale Europea è importante, darà i suoi frutti sulla crescita, che c'è un enorme bisogno di fiducia in Europa e la flessibilità non è una scorciatoia. Devo dire che sono d'accordo con chi scrive: senza Draghi alla BCE lo spread nostro sarebbe tornato a salire. Certo che l'operazione di acquisto di titoli della BCE è fondamentale per mantenere uno spread che oggi si è avvicinato anche a 140 punti. Ha fatto 142 anche a un certo momento, ma ripeto, vista la situazione sulle banche, mi sembra che lo spread in questo momento sia l'ultimo dei problemi. È chiaro che va guardato con attenzione. A chi mi dice sì, ma le nostre perdono di più, attenzione, perché Deutsche Bank da inizio anno ha perso il 36%, il che non vuol dire che vada bene che Unicredit abbia perso il 34 o 33%, e vale anche per gli altri, ma sto solo dicendo che il colosso bancario tedesco ha perso assolutamente quanto la media di settore italiano, 36%, quindi non è un problema. E Commerzbank da par sua ha perso il 30% da inizio anno. Ripeto, non è mal comune mezzo gaudio, ma vuol dire guardare la situazione nel suo complesso e non concentrarsi solo sulle banche italiane. Almeno sappiamo che alcuni di voi hanno verificato la frase di Groucho Marx ripresa da Woody Allen, e anch'io sapevo così. Comunque, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul, per sms e whatsapp sul sito Radio 24, prima di arrivare alla lunga pagina sulle banche Atene, le banche tedesche, le borse complessivamente, vorrei aprire un approfondimento sulla vicenda Ilva di Taranto, perché anche quello è uno dei temi dei rapporti con Bruxelles, e oggi è arrivata la prima manifestazione di interesse, nel caso specifico il gruppo italiano Marcegaglia. Allora, sentiamo anche un passaggio dell'intervento di Padoan sulla flessibilità, perché riguarda i rapporti con l'Europa, non c'entra, diciamo, con l'Ilva in senso stretto, perché noi non potremmo fare chiaramente aiuti di Stato, e già c'è stata una trattativa con l'Europa, e lo Stato vuole privatizzare l'Ilva, cioè vuole venderla, e deve rispettare le regole europee quanto a bando, chiamiamolo così, bando per le manifestazioni di interesse. Però sulla flessibilità Padoan dice è un classico esempio di quanti equivoci si possono creare. Dicevo, misure europee e misure nazionali. Come si fanno a rendere compatibili? La risposta per un economista è astrattamente semplice: creare gli incentivi giusti, fare in modo che il comportamento dei mercati vada nella direzione preferita. Il dibattito sulla flessibilità è un buon esempio di quanti equivoci si possono creare. Gli incentivi alla flessibilità introdotti recentemente a disposizione di tutti i Paesi membri dell'Europa non sono strumenti per avere scorciatoie di indisciplina fiscale. Sono al contrario strumenti di forte incentivo a fare le cose che servono, le riforme strutturali, gli investimenti pubblici. Quindi dobbiamo avere un atteggiamento positivo in questo senso, perché introdurre la flessibilità in questo modo nelle politiche di bilancio significa stabilire un legame molto forte e positivo fra continuazione del consolidamento fiscale là dove serve, ed è evidente, parlo per il mio paese, che un paese ad alto debito non può che perseguire l'abbattimento del debito, ma dicevo un legame molto forte fra politica di consolidamento di bilancio e politica di sostegno alla crescita. Questo è un esempio di interazione virtuosa fra strumenti. Oh, allora, nel frattempo cito una dichiarazione di Varoufakis, l'ex famoso, celebre, star, ministro delle finanze greco, il quale ha detto oggi in un'intervista a settimana francese OBS: avrei un'opinione più positiva di Matteo Renzi se invece che cercare di ottenere la tolleranza di Bruxelles e Berlino sul non rispetto delle regole, che è vero che sono stupide da parte del suo governo, si mettesse alla guida di una coalizione al Consiglio europeo per cambiarle. E poi aggiunge Varoufakis con un po' di veleno: lo giudicherei positivamente se nel momento più cruciale, ossia l'anno scorso a luglio 2015, non avesse anche Renzi partecipato in modo molto attivo all'esecuzione della Primavera di Atene, esecuzione come plotone di esecuzione della Primavera di Atene, ottenendo come risultato diretto il rafforzamento delle politiche che oggi combatte. Beh, insomma, non è del tutto, cioè, uno poi la può pensare come vuole, però è vero che l'Italia a suo tempo nel 2015 doveva svolgere un ruolo mediano, poi in realtà si è messa una scelta che uno può contestare o condividere dalla parte di Germania, in Francia e poi altri paesi. E Varoufakis dice: adesso ti lamenti delle regole che tu stesso, della rigidità che tu stesso hai contribuito a comunque mantenere quando c'è stato il caso di Atene a luglio dell'anno scorso. C'è una battuta che adesso mi è scomparsa, che era bellissima, di un ascoltatore che diceva: sta a vedere che adesso che il problema ce l'hanno anche Deutsche Bank e Commerzbank, la Germania rivedrà il bail-in. Beh, se devo guardare quello che sta facendo la Germania quando il problema dei profughi tocca la Germania direttamente, io sono d'accordo con il commento di Vittorio D'Arold. Finché i profughi sbarcavano in Sicilia o erano un problema limitato della Grecia, dell'Italia, niente. Adesso che i profughi gli arrivano in Germania via Balcani, Slovenia, no, Croazia, Slovenia, Austria, non solo 3 miliardi, ha ancora più soldi alla Turchia perché tenga i migranti. Diciamola così, la battuta che quando un problema è tedesco il problema c'è l'Europa è una battuta vera, è così. Mentre quando un problema è italiano il problema c'è l'Italia. Insomma, su questo, così come abbiamo appena riconosciuto che Varoufakis può aver ragione in questa critica su Renzi, bisogna anche dire che il Presidente del Consiglio ha ragione nel dire che c'è un diverso trattamento. Comunque, vedremo quale sarà invece il trattamento sulla vicenda Ilva. Allora, oggi fonti interne al gruppo Marcegaglia hanno detto che hanno confermato che il gruppo Marcegaglia, guidato dall'amministratore delegato Antonio Marcegaglia, presenterà fra oggi e domani la sua manifestazione di interesse per l'acquisizione anche sotto forma di affitto degli asset aziendali del gruppo Ilva. Si creerebbe in quel caso una filiera, nel senso che Ilva produce per il gruppo Marcegaglia e quindi l'acciaio, Ilva produce l'acciaio che poi serve al gruppo Marcegaglia per trasformarlo in, lo dico male ma per farmi capire, in tubi, in condotte, non solo per il gruppo Marcegaglia. Ci sono altri soggetti interessati all'acquisizione, tra cui il gruppo Arvedi, gruppo siderurgico cremonese, e Marcegaglia, adesso cerchiamo di capire se in partnership con il gruppo ArcelorMittal, poi c'è la società di trading Trusteel, che ha sede in Svizzera, che potrebbe anche qui guidare una quota italiana, e poi le grandi compagnie asiatiche, la coreana POSCO, il gruppo siderurgico cinese Hebei. Allora, Paolo Bricco, adesso le 24 ore, buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti i radioascoltatori. Dopo il meteo cerchiamo di capire come si svolgerà questa gara. È ovvio che, insomma, io da italiano ti dico che avrei interesse che l'Ilva restasse in una filiera italiana. Però siamo in Europa e queste cose le devi fare secondo i canoni europei. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi Focus Economia sul sito di Radio 24. Meteo. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Allora, l'Ilva, che ricordo a tutti è la prima acciaieria europea, nel senso non è solo la prima acciaieria italiana, oltre 10.000 dipendenti, il 50% della produzione dell'acciaio italiana, che è la seconda in Europa, viene fatta a Taranto, poi c'è anche Genova, ma viene fatta all'Ilva, per cui stiamo parlando di un elemento strategico per un paese. Adesso ho fatto la battuta sul fatto che vorrei che restasse italiana, è una battuta che in Germania e in Francia non sarebbe nemmeno una battuta, sarebbe un dato di fatto, non prendiamoci in giro. Qualcuno mi faccia notare che oggi la Crusca, qualcuno mi scrive sugli inglesismi. Allora, oggi l'Accademia della Crusca, visto che parlavamo di salvataggi vari tedeschi, ha chiesto agli operatori finanziari e ai giornalisti di evitare di usare termini di espressione inglesi economici, e io sono d'accordissimo, purtroppo ogni tanto ci scivolo anch'io, ma bail-in va tradotto come salvataggio interno, così lo facciamo capire a tutti, anche ai nostri deputati che ancora non lo sanno in alcuni casi, e bail-out in salvataggio esterno, così uno capiva che bail-in, il salvataggio interno, vuol dire che te la beccavi tu il salvataggio, tu correntista, tu azionista, tu obbligazionista. Salvataggio esterno invece è quello che abbiamo sempre fatto in questi decenni nel passato e che hanno fatto in Germania anche recentemente, oltre che in Francia, il bail-out. Devo dire che anche su questo il governo dovrebbe dare una mano, perché continuare a parlare di Jobs Act, dove parlare di decreto del lavoro, legge sul lavoro, Step Child Adoption, anche lì parla di adozione nel caso di morte di uno dei due genitori, ma è inutile parlare di Step Child Adoption, ok? E non si capisce una mazza. prendiamo l'invito della Cremina Crusca personalmente, ci metterò ancora più impegno nel far tradurre tutti i termini in inglese che arriveranno, e su questo la chiudo. Vorrei capire da Paolo Bricco quali sono invece le manifestazioni di interesse e quale, diciamo, potrebbe essere più congrua, sistemica alla filiera italiana dell'acciaio. Beh, cominciamo col dire che entro mercoledì alle 6 bisognerà depositare al Ministero dello Sviluppo Economico le manifestazioni di interesse. Il gruppo Marcegaglia è il primo che è venuto allo scoperto dicendo che questo da parte loro succederà. Tutti si aspettano che anche Arvedi faccia lo stesso, anche Cassa Depositi e Prestiti faccia lo stesso, quindi tutti i vari componenti che nel gioco demiurgico del governo dovrebbero andare a formare questa famosa cordata italiana, se la cosa riuscirà, l'operazione riuscirà, autonomamente depositeranno questa manifestazione di interesse in maniera tale da poter, da giovedì di questa settimana in avanti, entrare nella data room, cioè entrare nella stanza con i dati. Anche perché dobbiamo ricordare il tema dell'Ilva ormai è un tema gigantesco di finanza d'impresa, perché tutti coloro i quali vogliono acquisire l'Ilva, o almeno ci stanno pensando, vogliono prima vedere i conti. Ricordiamo che nei primi due anni di commissariamento, lasciando stare quali siano le responsabilità di chi o di che cosa, però nei primi due anni di commissariamento è stato bruciato 2,5, sono stati bruciati 2,5 miliardi, 2 miliardi e mezzo di capitale netto, quindi 5 mila miliardi delle vecchie lire che erano dentro all'Ilva sono andati in fumo. Nell'ultimo anno che cosa è successo? Noi non lo sappiamo, non abbiamo evidenza, ma neanche il Parlamento lo sa, non lo sanno anche, non la sa la classe dirigente di questo paese. E da giovedì in avanti chi vuole comprare l'Ilva inizierà a poterlo sapere. E quindi a quel punto, quando questi imprenditori, ripetiamo, Arvedi, Marcegaglia, i tecnici della Cassa Depositi e Prestiti, avranno contezza precisa dei conti, decideranno se dare o meno vita appunto alla cordata italiana, che ha un tassello importante già emerso. Cioè la scorsa settimana, ricordiamolo, un dirigente di impresa di grande esperienza come Paolo Scaroni, ai microfoni di questa radio, di Radio 24, ha dato una disponibilità. Questa cosa è stata una delle prime cose concrete, importanti, di svolta nel complicato processo di ristrutturazione dell'Ilva. Sì, lo fa, adesso magari lo facciamo anche risentire, era ospite da Giovanni Minoli a Mix 24, chiaramente a Radio 24, e Scaroni ha detto no alla Confindustria, no alle generali. Invece, come per il ruolo che ho in Rothschild di Deputy Chairman, se non ricordo male, potrei pensare quello sì sarebbe più inerente alla mia attività di risanamento dell'IVA. Ora, sappiamo tutti che però per risanare e risollevare l'IVA servono tra i 2 miliardi e i 2 miliardi e mezzo di euro. Gli ascoltatori ci chiedono come mai si sono, tra virgolette, bruciati, anzi si sono bruciati, perché non ci sono più quei 2 miliardi e mezzo dal commissariamento, anche perché sappiamo che lì ci fu il problema degli alti forni bloccati. E poi cosa faresti, a che cosa servono questi soldi soprattutto? L'impresa è stata paralizzata negli ultimi 3 anni. Prima è stato dato mandato a un commissario, Rico Bondi, di ristrutturarla e di riportarla sul mercato. Poi è stato deciso che quella cosa lì non andava più bene, è stato chiamato Gnudi, ex ministro, grande commercialista di Bologna, e con l'obiettivo di farla vendere. Questo non è successo, non è stato trovato un compratore, e a quel punto si è deciso di fare appunto quest'asta. E questi miliardi sono stati bruciati perché l'impresa, un'impresa gigantesca che deve funzionare a pieno regime per rimanere in equilibrio finanziario e per produrre utili, in realtà è rimasta bloccata per 3 anni nella battaglia tra i RIV e la magistratura e la politica e i commissari. Si è creato veramente la condizione di un grande disastro italiano. Adesso l'auspicio è che da quest'estate, come dire, la classe dirigente di questo paese, il governo e la magistratura tarantina hanno trovato un modus in rebus, un modus vivendi. La battaglia tra la magistratura e la famiglia Riva ormai è esterna a questo grande procedimento, e a questo punto il tema è proprio questo, cioè trovare le risorse per fare ripartire l'impresa tramite appunto la vendita, qualora entro il 30 giugno arrivino offerte vincolanti e contestualmente utilizzare soldi pubblici per fare il risanamento ambientale. Su questo pare che ci sia l'accordo con Bruxelles, che ha detto va bene i soldi pubblici per il risanamento ambientale, esatto, anche sotto forma di prestito eccetera, per il risanamento ambientale. È chiaro, giustamente, come dicevi prima tu, che noi non siamo la Germania e quindi dovremo verificare se queste dichiarazioni di principio di Bruxelles si realizzeranno, nel senso che in un'impresa come l'Ilva è molto complesso distinguere la parte produttiva dalla parte di risanamento ambientale. Sì, ho capito, però è anche vero che insomma avrebbe un senso, diciamo, che Bruxelles certo. distinguesse tra da un lato chi si compra l'Ilva certo. e poi la mette in filiera e dall'altro invece se c'è un investimento per la collettività e quindi il risanamento ambientale, quello non è aiuto di Stato all'Ilva, diciamocela tutta. Poi vedremo le altre cordate, ripeto, non c'è niente di male nel tifare italiano a parità di offerta. Il tema della data room, siamo già caduti sull'inglesismo, ma ha detto giustamente un ascoltatore, della stanza dei numeri. ha ragione. Della stanza dei numeri, perché? Perché si fa sempre, quando tu acquisisci, si fa la cosiddetta, e anche qui devo tradurre, due diligence. Adesso questa, diciamo, la diligenza dovuta, l'analisi dovuta fa schifo. Diciamo, si vanno a vedere le cifre esatte nel dettaglio, al di là del bilancio che le ha, aggregate e tutto un insieme di elementi prima di comprare. Simbolicamente si dice stanza dei numeri, in realtà non c'è nessuna stanza in cui vengono chiuse le persone, ma semplicemente hai accesso ai numeri riservati dall'azienda che viene messa in vendita e cerca un compratore. Grazie a Paolo Bricco del Sole 24 Ore. Adesso iniziamo la lunga pagina sui mercati. La chiusura è meno 4,70%, Francoforte meno 3,30%, Parigi meno 3,20%, Londra meno 2,60% e cos'altro dire? Insomma, diciamo che faccio prima dirvi chi ha perso meno del 4% oggi, che sono Eni ha perso il 3,60%, Generali il 3,10%, Tenaris il 3%, Terna 2,90 come Tods, Snam il 2%, Enel Green Power meno 1,40, Enel meno 1,30, Moncler meno 1,20, Italcementi meno 0,2%. Tutto il resto ha perso dal 4% fino al 12% del Monte dei Paschi di Siena. C'è chi mi scrive, allora a questo punto cambiate anche il numero per i vostri sms, che ricordo WhatsApp è 349-238-6666, ci sono troppi 6 visto il periodo, penso che si riferisca al numero del diavolo, i 36, sì, vabbè, dai. Poteva andare anche peggio, com'era quella? Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Grazie alla regia, perché oggi ne ho bisogno. Tra le condizioni di salute personali e le condizioni di salute del mercato, sta peggio il mercato di me, tranquillo. Vorrei poter dire il contrario, ma insomma sta peggio il mercato di me. Traffico e poi iniziamo a ragionare su quello che sta capitando. Grazie alla regia per... cos'era? Frankenstein Junior? Se non ricordo male. Traffico. Focus Economia. Allora, dunque la chiusura, Deutsche Bank meno 10%, Commerzbank meno 9,6%, ripeterò fino allo sfinimento, non è per dire mal comune mezzo gaudio, ma è per inquadrare cali e tonfi e crolli in alcuni casi che riguardano, ahimè, o per fortuna non me ne frega nulla, tutte le banche europee dell'area euro. E ripeto, i due titoli che ho appena citato hanno perso da inizio anno quanto le nostre banche, il 36-37%, la media dell'Italia è un 34%, delle banche italiane, del settore banca italiano è 34%. Poi Monte dei Paschi meno 12, Popolare Emilia Romagna meno 12, UBI Banca meno 10,50, Poste Italiane meno 10,50. Cosa volete che sia successo sul titolo Poste Italiane di nuovo? Nulla, è un mercato che butta giù tutto. Fiat Chrysler meno 9,90, Pop Milano meno 9,80, Exor meno 9,40, Mediobanca meno 9,30, Anima Holding meno 9,20, Banco Popolare meno 9%, Mediaset meno 8,70, Azimut meno 8,40, Mediolanum meno 8,30. Il 7,5 lo perde Buzzi Unicem, il 7% del caro di Yux Net-a-Porter. Voglio dire, perfino chi vende la moda online perde il 7%. Che senso ha? Lo dico proprio tranquillamente. È che tutti stanno scappando dal lavoro in questo momento. Cioè non c'è nessuna connessione. Atlantia vive coi pedaggi autostradali, giusto? Perché è l'ex autostrade. Perde il 6,30%. C'è una connessione? No. ST Microelectronics, non è che improvvisamente abbiamo smesso di andare in autostrada o hanno abbassato i pedaggi. Magari meno 6,50% ST Microelectronics, meno 6 Telecom Italia, meno 5,80 Unicredit, meno 5,70 Unipulsai, meno 5,40 Prismian, meno 5,15 CNH Industrial, meno 5% Unipol e Ferrari, meno 4,80 A2A e Campari, meno 4,50 Finmeccanica, meno 4% Luxottica, meno 4% Intesa San Paolo come Salvatore Ferragamo, meno 3,60 Eni, e finiamo appunto con chi perde solo il 3% e sia Generali. L'indice ha perso il 4,70%. Ripeto, Parigi meno 3,20, Francoforte meno 3,30, Londra meno 2,70, l'America sta perdendo 2,20%. Flavia Carletti, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Possiamo commentare solo un titolo, perché tanto gli altri li commenterò. Saipem, perché in tutto questo Saipem perde il 25-29%, l'ultimo prezzo è a 38 centesimi di euro per azione. Sì, è stato appunto il peggiore tra i titoli a maggiore capitalizzazione di Milano e in un momento già in cui il titolo è già stato tra i più venduti nelle ultime settimane, oggi è arrivata un'altra notizia negativa, cioè che Standard & Poor's ha deciso di mettere sotto credit watch negativo il rating della società di servizi per l'industria petrolifera alla luce di una possibile correzione delle stime dal 2016 al 2018 da parte della stessa agenzia di rating. Secondo quanto proprio riportato la nostra agenzia Radiocore, questo possibile taglio del rating da parte della l'agenzia USA nei prossimi mesi comporterebbe un aumento delle commissioni di garanzie richieste dal consorzio bancario di collocamento a SEM per la ricapitalizzazione e un incremento dei tassi di interesse sull'endi credito. Insomma, finanziariamente la situazione di Saipem si aggraverebbe, questa diciamo è la sintesi. Capirai. Esatto, diciamo Saipem appunto ha questo aumento di capitale che già non è stato accolto bene dal mercato e ha provocato le vendite. Il possibile taglio di rating da parte di S&P farebbe pagare di più alla società, al di là alle condizioni di aumento di capitale che si aggraverebbero, comunque dovrebbe pagare eventualmente più interessi sul debito e il debito di SAP non è proprio bassissimo, quindi comunque sarebbe un aggravamento di tutta una serie di condizioni e in un momento poi a maggior ragione in cui il prezzo del petrolio continua a rimanere basso, destando preoccupazioni sulla crescita a livello globale. Allora, vedo molti messaggi, io capisco il nervosismo e la tensione, noi siamo qua accogliere anche quelle. Qualcuno mi dice ma guardi, i fondi sovrani stanno vendendo, se la riunione OPEC non interverrà ad aumentare a ridurre la produzione per aumentare il prezzo del petrolio, le vendite continueranno, immagino si riferisca ai fondi sovrani del Qatar, degli Emirati e quant'altro. Ok, tutto bene, cioè ogni le spiegazioni vanno tutte bene, però obiettivamente se qualcuno, io perché leggo anche toni, non in questo caso, ma altri toni un po' saccenti, io dico se qualcuno ha capito chiaramente, adesso sentiremo le spiegazioni degli analisti, perché tra novembre e dicembre le banche continuavano a salire, parlo anche delle banche europee, non sto parlando solo del Monte dei Paschi nostro o della singola banca, e da inizio anno le banche di tutta l'area euro hanno avuto cali come settore dal 25 al 34%, me lo dica, perché le spiegazioni possono essere mille, no? Ma assomigliano, oggi andiamo di film, di citazioni, dai datemi John Belushi che devo ritirarmi su. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il Tide, c'era il funerale di mia madre! Era crollata la casa! C'è stato un terremoto! Una tremenda inondazione! Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio! È l'ultima che mi fa impazzire. Allora, ma non ce la faccio oggi. No, non sto male per il malleolo e non ho urlato per l'Hellas Verona. Cosa ve ne frega? Sto male perché i bambini sono bombe batteriologiche e ho preso anch'io qualcosa. Allora, dottor Angelo Drusiani, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Allora, al di là delle spiegazioni, appunto, l'invasione delle cavallette alla John Belushi, insomma, c'è qualcosa. Molti scrivono c'è una tempesta perfetta. Ho capito. Uno può dire, guarda, che la concomitanza tra petrolio, bail-in, o meglio per non usare l'inglesismo, salvataggio interno, economia che rallenta per via della Cina, tutto questo poi crea un'occasione per andare a vendere. Mi sembra un po' tanto, ma non è che avete il sospetto che le banche, a partire da quelle tedesche, siano piene di derivati in pancia? Io credo che sicuramente l'aspetto che fa riferimento al sistema bancario, al comparto bancario in generale, sia quello che è emerso dopo tanti tempi, tanto periodo lungo di silenzio, è emerso tutta la sua potenzialità, perché effettivamente vedere all'interno dei bilanci delle banche quale sia l'aspetto più negativo, quello che presenta i maggiori rischi, non è così semplice. Al di là dei crediti incagliati, indubbiamente anche la tipologia degli strumenti che hanno nei portafogli immobiliari, cioè obbligazioni, prodotti derivati, quelle faceva riferimento, eccetera, è abbastanza complesso da rilevare in tempi abbastanza brevi. Di sicuro quello che io trovo abbastanza difficile da capire è la mancanza di presenza delle autorità in questa fase. Oh, finalmente qualcuno. Non parla nessuno. Le Consob, le autorità di vigilanza, no, no. Il presidente dei consigli, i ministri. Ma Schäuble, faccio per dire, Padoan di banca ha parlato, poi lo ascoltiamo, ma Schäuble che parla sempre per qualunque cosa debba capitare in Grecia, in Italia, adesso anche sulle obbligazioni abbiamo letto, vorrebbe, ma perché non ci spiega come mai Deutsche Bank perde l'11% oggi e non è una banca italiana? Resti con noi Drusiani, c'è qualcuno che sottolinea invece il tema geopolitico sollevato da Sapelli venerdì scorso, di scontri, di geopolitica, logica militare, che sia un modo degli Stati Uniti per mettere in riga la Germania. Ragazzi, vi facciamo risentire Belushi dopo, Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Drusiani, dicevamo, ci possono essere mille motivi addotti e quindi anche la tempesta perfetta, calo del petrolio che oggi è a $30, il dollaro che non, l'oro che non si muove come bene rifugio, il rallentamento dell'economia cinese e la presenza di un insieme, e anche la variabile geopolitica sollevata da Sapelli, lo scontro per il Mediterraneo, per il controllo del Nord Africa e quant'altro. Però al di là di, lei crede alla teoria della tempesta perfetta o che spiegazione si è dato oggi? Io credo che da che le borse esistano ci sia una componente speculativa molto importante. La componente speculativa va in qualche modo messa entro certi canali, cioè occorrerebbe una difesa. Io ricordo quando c'erano le borse gridate, è vero che era un'attività molto meno intensa di questa di oggi, però c'era una difesa da parte delle autorità. Oggi non vedo nulla, a parte il quantitative easing, che però ha un effetto relativo, abbiamo visto anche in Giappone, non è che possa fare questi miracoli. Però se pensiamo che la BCE si riunirà il 10 di marzo, manca più di un mese, siamo in una situazione complicatissima, perché veramente è complicatissima, perché il problema delle banche è emerso in maniera dirompente, nel senso che lei ha fatto riferimento poco fa a Deutsche Bank. Deutsche Bank sappiamo che è una banca con una leva fortissima, cioè ha un'enormità di prestiti in giro e non si sa bene come possono andare a finire, se finiscano bene o finiscano male. Quindi, ma poi io faccio notare che i CDS, di cui non sentivamo parlare dal 2009-2010, sì, esatto, come termometro del rischio di un soggetto, e ricordo è un po' come il premio che noi paghiamo alla polizza assicurativa dell'auto, cioè più siamo considerati a rischio più dobbiamo pagare un premio. i CDS misura uno questi credit default swaps, sì. E oggi sono in due settimane da Deutsche Bank sono passati da 90 punti a 200 punti. Non è un livello ancora 400, 500 come durante la crisi greca su alcuni titoli e quant'altro, però insomma è più che raddoppiato il rischio che paghi al mercato, diciamo, sulla tua non solvibilità. Esattamente, sa, questo è un peso rilevantissimo su tutte le quotazioni, su tutti i listini, è vero, il nostro è peggiore che di tutti gli altri perché noi siamo, il listino italiano è basato soprattutto sulle banche, ma anche altrove le banche hanno un peso notevole e se non c'è difesa da parte di nessuno, signori miei, l'assicurazione agisce come vuole, vende lo scoperto, poi si fa prestare i titoli, li ricompra a prezzi più bassi e poi continua questo gioco. Se non c'è qualcuno che interviene, è evidente che da solo il mercato non si può difendere, ma questo è fuori discussione, anche perché si è innescata una fase negativissima, nel senso che si pensa che possa solo e semplicemente scendere, e quindi cosa è successo? Stanno attaccando le borse in maniera importante, adesso che magari pensano che forse sulle borse si sia arrivati a livelli già molto, molto bassi di quotazioni, cosa fanno? Vanno sui titoli di Stato, quindi questo è chiaro che è una strategia organizzata da chi sa lavorare bene nelle borse e lo fa perché sa che dall'altra parte non c'è chi ha la spada per difendersi, almeno io la vedo così. Ma quindi lei, Druggiani, per capirci, siccome tanti anni che lei lavora sul mercato dei titoli di Stato, reddito fisso, ma non solo, lei che cosa suggerirebbe? Nel senso, ci sono possibilità molto concrete, o sospendi le vendite allo scoperto, però sappiamo che il rischio poi di intrappolare e poi quando tu le riammetti si scarica, diciamo, con un effetto di accumulazione la vendita allo scoperto sul listino. Sospendere che cosa? Cioè, che cosa dovrebbero fare le varie Consob, diciamo, europee? Io credo che dovrebbero essere i governi ad intervenire, tipo il nostro, in maniera molto più importante sulle banche per quanto riguarda le cosiddette bad bank, che è stata rinviata perché sono problemi più importanti evidentemente da sistemare in questa fase, ma se i governi tacciono, fanno, in pratica non intervengono da nessuna parte, è chiaro che non si vede all'orizzonte nessuna soluzione a quelli che sono i problemi sollevati, perché il problema sollevato è quello delle banche, questo è evidente, in Italia soprattutto, ma credo anche nel resto dell'Europa. Quindi se non si vedono dei movimenti in questo senso, è chiaro che la speculazione continua ad andare avanti tranquilla. Perché sì, però i movimenti Druggiani non li può fare ancora Draghi. No, cosa deve Draghi? Io parlo dei governi in questo momento. Ecco, tra l'altro lo spread è a 146 punti. Esattamente. Che è quello sotto quello spagnolo, se ho ben visto, di qualche punto. Però siamo a livello più alto dal luglio del 2015. Anche qui nessun panico, perché abbiamo visto lo spread a 400, a 500. Sì, certo, però... Però luglio 2015 è esattamente in concomitanza con la crisi greca, quando la crisi greca era nella parte più virulenta, cioè le code allo sportello per ritirare i 60 euro dei pensionati e il mercato che diceva forse la Grecia non ce la farà a stare dentro l'Europa. Crisi greca, fra l'altro, la Barisoni che si sta rappresentando. Adesso ne parliamo, ma resti con noi Druggiani, perché ci ha raggiunto in studio Fabio Pavese del Sole 24 Ore, che ha scritto proprio di Deutsche Bank. Faccio notare, io vi voglio ridare però le percentuali al netto di oggi perché non abbiamo ancora fatte, però attenzione, le nostre banche, lo ridico perché è importante capire lo scenario complessivo, altrimenti ce la pigliamo col Monte dei Paschi che va benissimo, con Banco Popolare, Popolare Emilia Romagna, ma non capiamo lo scenario complessivo. Il nostro settore bancario a oggi, a stamattina, quindi adesso il dato è peggiore, aveva perso il 34% da inizio anno, ok, un terzo del valore di borsa. Commerzbank ha perso il 30% d'inizio anno, Deutsche Bank ha perso il 36% d'inizio anno, Credit Suisse ha perso il 33% d'inizio anno, Royal Bank of Scotland il 22%, Santander il 21%, BNP Paribas il 24% d'inizio anno. Ora, è vero che 10 punti sono tanti tra il Santander e la media degli italiani, però comunque anche il Santander ha perso un quarto del suo valore praticamente da inizio anno. Allora, bisogna capire, noi abbiamo una debolezza ulteriore. Sentiamo Padoan sulle banche, l'unione bancaria per ridurre e condividere i rischi vanno affrontati assieme, non come singolo paese messo all'angolo? Una unione, sia essa bancaria ma anche economica, deve, per essere veramente unione, basarsi su due principi. Il primo principio è la riduzione del rischio, quello che può portare all'instabilità, risk mitigation. Il secondo principio è la condivisione del rischio. Se siamo in una unione ci sono rischi sistemici, non relativi a un singolo paese che viene messo all'angolo, ma rischi che dobbiamo condividere. sia in termini di valutazione che in termini di risposta, e questo vale per l'unione bancaria ma anche per altre questioni. Ecco perché avere domani un sistema di garanzia dei depositi veramente comune non solo è importante in sé, ma è importante come messaggio. Noi vogliamo condividere rischi e opportunità e dobbiamo farlo veramente. Altro elemento apparentemente tecnico, ma che si richiama alla stessa questione, è il common backstop, cioè il fatto che ci debbano essere risorse pubbliche per sostenere la stabilità finanziaria in un'unione bancaria e monetaria. Anche qui bisogna condividere il rischio. Perché questo è importante? Perché, almeno questo è quello che ho verificato nella mia esperienza del lavoro che faccio adesso, un elemento fondamentale di cui c'è enorme bisogno in Europa è la fiducia. Se non c'è fiducia reciproca, noi non possiamo costruire elementi comuni, sistemi comuni, strumenti comuni. Allora, Fabio Pavesi, le banche tedesche, già Drusiani accennava, poi devo fare un paio di domande che le rivolgono gli ascoltatori drusiani, però insomma, già accennavano al fatto, sappiamo che sono Deutsche Bank in primo luogo, che avevano tanti prodotti derivati, che questa cosa è stata messa un po' a sopire, la dico male, ma per farmi capire, nel corso degli anni, quando l'economia poi è ripartita, da tempo si dice attenzione che c'è una bomba dentro Deutsche Bank. Questo però giustificherebbe il calo pesantissimo di Deutsche Bank, ma non il resto. Beh, oddio, oggi c'è una notizia, Deutsche Bank perde il 7%, ha dovuto smentire il fatto che siano a rischio i loro bond subordinati. Cioè, poi i subordinati non ce l'hanno solo le banche italiane, ma perché questo? Perché avendo poco capitale in rapporto al bilancio, se vai, fai un bail-in anche in Germania, cioè un salvataggio interno, il capitale non basta, toccheresti gli obbligazionisti anche in Germania, non solo in Italia. Allora, io penso e che Deutsche la battuta ha dovuto smentire questa cosa, e il titolo cadeva, è caduto del 10%. No, noi abbiamo voluto fare un esercizio, nel senso ci chiedevamo, ma sono veramente solo le banche italiane che hanno il problema di sofferenza, quindi sono in crisi, o c'è un problema del credito in Europa? Abbiamo scoperto che nessun titolo europeo delle banche quota il suo capitale, il che vuol dire che la borsa è disaffezionata, e questo accade non da ieri ma da almeno 3 anni. Deutsche Bank valeva 50 euro nel 2012, oggi è 15 euro, ha perso il 70% del suo valore e quota meno della metà del suo capitale, come una bistrattata Banca Popolare Italiana. Perché? Allora, noi abbiamo le sofferenze, ma le grandi banche europee hanno in pancia i titoli finanziari, i derivati, che sono illiquidi. Questi vengono dalla crisi dei subprime. E allora è come se fossero le sofferenze degli altri. Cioè, noi sappiamo che un prestito che non torna ha delle perdite, ma quei titoli lì che la banca dice per me valgono 100, li tiene lì nel bilancio e che non hanno un prezzo di mercato, valgono davvero 100 o valgono 50? Cioè, il problema è che se Deutsche Bank dovesse collocare questi titoli non ha il prezzo. Esatto, non sappiamo se sono 31 miliardi su 50 di patrimonio, cioè valgono più della metà del capitale. Allora, se ha ragione Deutsche, riesce a piazzarli a 100, non c'è nessun problema, ma se domani Deutsche deve venderli, e con la crisi delle borse questo può succedere, e perdono valore, quella diventa come una sofferenza italiana, certo. E quindi va a deprimere il capitale. E ha un effetto slavina, perché tu vendi perché hai perso il 30% del capitale in borsa, e la borsa si accorge che quei titoli tossici o derivati, comunque, tu non li riesci a vendere al prezzo in cui li hai bilancio a 100, esatto. E magari li vendi a 70, perdita. E quindi dico, vabbè, aspetta, devi mettere 30 in più di perdita, e a quel punto il titolo si deprezza ancora di più. Esattamente, cioè la paura del mercato è legata al fatto che le banche, le grandi banche anglosassone, i francesi, le tedesche, le inglesi, non dimentichiamo, noi abbiamo fatto un caso eclatante, Royal Bank of Scotland, che è stata nazionalizzata nel 2008, ha prodotto da sola 48 miliardi di sterline di perdite fino al 2014, 7 anni consecutivi, e equivalgono a tutte le perdite di tutte le banche italiane negli ultimi 4 anni. Una sola banca inglese ha accumulato più perdite del sistema. Questo non per dire che il sistema bancario italiano sta bene, mi raccomando, attenzione, cioè non vorremmo. Però il tema è veramente quello del credito, nel senso che le banche di fatto non si sono più riprese dalla crisi. Vorrei dire solo una cosa a Drusiani, ne approfitto. Adesso lui invoca un intervento, però non dimentichiamoci che la politica monetaria ha secondato molto i mercati in questi anni, cioè col quantitative easing, con i tassi bassissimi. Allora, noi non possiamo sempre pensare che la politica monetaria debba surrogare, come dire, il fatto che le cose non funzionino. Cosa sta accadendo? Che si capisce che la politica monetaria, più passano gli anni, anni meno effetto, perché col prezzo del petrolio vanifichi ogni intervento sui tassi bassi. Si vede che c'è un rallentamento non previsto delle economie, si vede che la Fed alza i tassi sbagliando e quindi probabilmente rinuncerà a farlo. Questo ha provocato il panico in borsa, perché si capisce che la politica monetaria ha un suo limite, le economie vanno in decelerazione e questo ha provocato il panico nelle borse. Allora, due battute degli ascoltatori e poi traffico e poi risposta di Drusiani e Darold sulla Grecia. Una della prima ora fantastica, come sintesi vedrai che se adesso i problemi c'erano le banche tedesche, parliamo dei colossi tedeschi, Deutsche Bank e Commerzbank, magari cambiamo il bail-in. E io devo dire che tanto è così, purtroppo. O se no, il salvataggio interno, attenzione, perché poi voglio vedere cosa succederà con un colosso come Deutsche Bank se mai dovesse esserci una richiesta. Per cui, prima di scherzare solo con le banche piccole popolari nostre, come hanno fatto i tedeschi, bisognerebbe pensarci bene. Secondo aspetto invece che sottolineo gli ascoltatori per quello che riguarda l'andamento della borsa, mi scrivono gli ascoltatori, immagino operatori, non c'è un buon motivo, il problema è che non c'è un buon motivo per andare long, cioè per comprare, questo vuol dire in linguaggio, non abbiamo motivi per comprare, che è un po' quanto ricordava Fabio Pavesi, cioè non c'è un buon motivo per comprare, per credere, quindi vai a vendere. Traffico. Focus Economia. Drusiani, sa cosa scrivono gli ascoltatori? Che voi invocate l'intervento dello Stato quando la borsa va giù e invece quando la borsa sale, quindi socializzate le perdite, non lei, ma dico in questo ragionamento che lei fa, socializzate le perdite sulla collettività, che è una vecchia logica anche della grande industria italiana degli anni 70, 80, non voglio infilarmi adesso in... e privatizzate gli utili, cioè finché la borsa saliva, grazie a Draghi, grazie a quantitative easing, nessuno chiedeva alle autorità di intervenire per una borsa dove i titoli bancari erano troppo alti. Adesso vorreste che intervengano le autorità di vigilanza. Fermo restando che sono d'accordo con chi scrive, ma Schäuble e Weidmann dove sono? Esatto, visto che parlano sempre quando dei casi degli altri, ma oggi non sentiamo, non ho visto mezza riga su Commerzbank e Deutsche Bank. Ma non è possibile. Uno fa il presidente della Bundesbank, l'altro è il ministro delle finanze. Insomma, hanno i due colossi europei. Oh, ma neanche una riga, cavolo, hanno scritto qualunque cosa sui pensionati tedeschi e sugli obbligazionisti italiani e della Popolare Etruria. Comunque, Drusiani, socializzate le perdite. No, io mi riferivo a interventi tipo quelli cui faceva riferimento lei, non che lo Stato intervenga a comprare o a difendere la borsa. Io intendevo da un lato gli interventi pubblici per far capire com'è la situazione, per dare un po' più di fiducia agli investitori. Dall'altro l'intervento dei governi, io faccio riferimento al nostro in questo caso, perché intervengono sul sistema bancario e mettono a fuoco esattamente quello che dovrebbe essere la bad bank. Non rinviare continuamente questa decisione, perché in questo modo si fa vedere chiaramente che le idee non sono ancora chiare. Non intendevo nessun tipo di socializzazione, per carità. Le borse alla fine sono purtroppo lo specchio di quello che è il paese o l'economia. No, anche perché sa che c'è chi sostiene da questo punto di vista Draghi abbia drogato, o meglio abbia reso più facili gli acquisti, sistema anestetizzato, per meglio dire, no? A noi ci fa solo comodo, io infatti Draghi santo subito continuo a dirlo, però perché se lo spread è a 140 è merito suo in questo momento, prendiamoci chiaro. Però su questo è vero che qualcuno compra, quando diciamo che vende, oggi è adesso uscita l'agenzia, 309 miliardi bruciati, giustamente molti di voi mi fanno notare, non dite mai quanti si sono creati quando la borsa sale. Ho capito che qualcuno compra, se no qualcuno non vende, ma diciamo l'ondata è ribassista dovunque da questo punto di vista. Saluto anche Vittorio Darold, perché in questa tempesta perfetta c'è anche il caso greco. Insomma, oggi la borsa di Atene ha perso alla fine l'indice, mi sembra il 9%, l'8%, adesso vado a controllare l'ultimo dato, comunque è tornata a livello più basso da 25 anni a questa parte, e i titoli bancari greci, Alfa Bank, Banca del Pireo, Banca Nazionale di Grecia, Eurobank, hanno perso tra il 20 e il 25% in un giorno. Vittorio Darold, che sta succedendo? È il piano di riforma delle pensioni e le tensioni che sta portando? Cioè, lo spread greco è a 1000 punti sul Bund, prego. Sì, esattamente, cioè l'orizzonte politico sotto il Partenone si è tornato a rannuvolare. Cosa sta succedendo? C'è un braccio di ferro in corso con la Troica sulla riforma, l'ennesima riforma delle pensioni, che prevede un 15% di taglio ancora, una riduzione che vale 1,8 miliardi di euro, quasi l'1% del PIL, perché intanto il PIL si è ridotto quasi del 25%, quindi la situazione è sempre più difficile. No, questo voglio dire, è l'effetto, perché poi quando lo diciamo noi è anche l'effetto della ricetta della Troica, possiamo dire queste cose, perché poi il nostro gruppo ha uno slogan che è la cultura dei fatti. I fatti sono che un paese che ha il PIL della Lombardia scarso è da 7 anni che continua a essere un tunnel, almeno dagli ultimi 5, senza che abbia risolto la cura che gli è stata imposta. Allora, se un medico ti dà una cura, all'inizio puoi anche soffrire, per carità, ti farà male, ma poi qualche cavolo di miglioramento lo devi vedere, Vittorio, o no? Esatto, e il problema è che proprio qui allora, si continua con questa cura di austerità da 8 anni, le pensioni sono... il 50% dei greci vive come prima fonte di reddito all'assegno previdenziale, perché con il 26% di disoccupazione non c'è un'indennità di disoccupazione e quindi non hanno altro che questa forma previdenziale estesa, mascherata, eccetera, che sono appunto le pensioni, che hanno anche una funzione di welfare, perché non c'è altro se non la classica rivolgersi alla famiglia, che è il vero welfare dei greci. Tutto questo però, se tu continui a insistere con questa situazione, sta provocando una ribellione talmente elevata che in piazza sono scesi i notai, i farmacisti, i pompieri, i poliziotti, cioè ormai siamo arrivati proprio alla massima tensione sociale possibile, e quindi anche un governo che si era riproposto di ridurre l'austerity non può far altro. Sì, tra l'altro Standard & Poor's il 22 gennaio ha tagliato il voto sulla Grecia da B a triple C più... Esattamente. Comunque, vabbè. Però... Drusiani, mi dico una cosa, a parte che c'è chi mi scrive imbecille, vabbè, ma lei pensa che la Germania avrebbe problemi a salvare Deutsche Bank con il debito che ha confronto a noi? Incompetente, no? Guardi che sicuramente la Germania ha un debito molto più basso del nostro, ma non può più farlo. Dal primo gennaio le è sfuggito. In teoria, anche in pratica. Adesso non è che ci hanno rotto le palle. Abbi pazienza, Rosani, ma non è che hanno rotto le palle per 4 banche locali che bisognava utilizzare il fondo privato di tutela dei depositi, così non avevamo il problema degli obbligazionisti di Etruria, Chieti, Ferrara, e adesso perché è troppo grande non si può più fare. Quindi apprezzo l'imbecille e l'incompetente, ma lei è un po' disinformato, perché dal primo gennaio il bail-in, il salvataggio interno, prevede che non si possa ricorrere agli aiuti esterni. Prima usi gli azionisti, poi usi gli obbligazionisti di qualunque livello, senior o non senior, poi usi i correntisti sopra i 100.000 euro, e a quel punto, se non ti basta neanche quello, auguri, nel senso che non si è ancora capito cosa, se tocchi anche quelli sotto i 100.000, o puoi finalmente utilizzare il salvataggio esterno. Per cui la Germania può avere quanti soldi vuole, ma non può salvare Deutsche Bank. Rapidamente Drusiani e Pavese, ho 2 minuti scarsi. Drusiani? Sì, no, non può intervenire come fece già 5 anni fa. No, ma volevo capire, ma la Grecia è un altro fattore oggi o in realtà? Sì, la Grecia è un altro fattore, perché? Perché vogliono che sia un altro fattore di crisi, perché è inutile che stiano a insistere sulla Grecia, cosa vuole che faccia? I miracoli, poveri cristi, anche loro. Non riescono più a fare quello che pretende la Troica, perché la Troica... Quello che pretende la Germania, non la Troica. Io dico la Troica per essere diplomatico, è chiaro che la Germania che pretende... D'altra parte, Padoan, quello che lei ha fatto sentire prima è la verità. Siamo divisi, siamo rimasti al secondo dopoguerra, è tornato l'egoismo, l'individualismo. L'Europa, io le dico per l'ennesima volta, l'area euro in queste condizioni è un'area nociva per il mondo, perché c'è troppa divisione, non c'è assolutamente qualcuno ha ragione che dice, c'è una variabile geopolitica. Gli Stati Uniti d'America possono permettersi che per colpa di un'Europa tutta austerità tedesca e loro non riescono a rialzare i tassi di interesse come vorrebbero, perché hanno la Cina che rallenta, il petrolio che è basso, e più l'Europa che non cresce, perché tutto il... ha parlato Weidmann, è un mito, il capo della Bundesbank. Sapete di cosa ha detto? Ha proposto la creazione di un ministro delle finanze unico per l'area euro. Cioè, in questa giornata in cui doveva occuparsi delle sue banche, viene a rompere le scatole sul ministro, che magari proponiamo pure un tedesco a questo punto, famo prima. Fabio Pavese, vai. Sì, 2 elementi. Attenzione, perché le banche greche, c'è il tema dei titoli di Stato, e c'è un'idea malsana di Schäuble che dice i titoli di Stato non sono più a rischio zero. È ovvio che se questa dichiarazione dice d'ora in avanti i titoli di Stato andiamo a pesarli, inciderà sulle banche greche, spagnole e italiane. C'è anche questo elemento che sta filtrando tra gli operatori. Allora ci chiediamo, i titoli liquidi di Deutsche Bank non sono la stessa stregua valutabili al 100% o al 50%? Ultima considerazione, per dire del nervosismo del mercato, Una banca come Intesa, faccio solo un esempio, ha dato gli utili più alti dal 2007, darà un dividendo di 2 miliardi quest'anno, ha un core tier 1 del 13% superiore a Deutsche e ben ha perso il 34% da inizio gennaio. Questo dà l'idea in questo momento del nervosismo acuto del mercato. Poi, prima o poi però dovremmo adesso, noi commentiamo la cronaca e l'attualità, ma dovremmo anche chiedere conto, io l'ho già detta questa cosa, proprio per la cultura dei fatti, a chi ha diretto l'Europa, l'area euro in questi anni? Rispetto al 2010, quando le altre economie escono dalla crisi del 2008, stiamo meglio o stiamo peggio come area euro? Siccome c'è un paese che non ha mai fatto mistero di avere un peso superiore agli altri, si deve assumere le responsabilità. Nel bene, se ci avessi fatto trovare una situazione migliore. Nel male, se evidentemente la politica è stata fallimentare o quantomeno ha mantenuto l'area euro come area di debolezza a livello mondiale. Sono d'accordo con Drusiani, stiamo già sforando. Grazie a Angelo Drusiani, a Vittorio Darold, a Fabio Pavesi. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.